Resto, vieni qui, ma su non fare così, ma non li vedi quanti altri bambini? Che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai. È il primo giorno, però domani ti abituerai e ti sembrerà una cosa normale fare la fila per tre, risponder sempre di sì e comportarti da persona civile. Hey! Mi insegnerò l'amore, a recitar le preghiere, la patria e la bandiera. Noi siamo un popolo di eroi e di grandi inventori, discendiamo dagli antichi romani. E questa stufa che c'è e basta appena per me, perciò smettetela di protestare e non fate rumore quando arriva il direttore, tutti in piedi e battete le mani. Hey! Buonasera a tutte e tutti, questa è Radio Onda Rossa, la trasmissione è L'Ora di Buco, lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola, e è una versione ridotta, anche precaria, in queste condizioni è il massimo che per oggi possiamo offrire, ma abbiamo deciso di lasciare aperto, mantenere aperto questo spazio perché l'interesse su quello che sta accadendo nel mondo della scuola in questa situazione è alto, e quindi già diamo appuntamento a chi ci ascolta alle altre trasmissioni della radio, nei quali il tema della scuola è stato già trattato e continuerà a essere trattato dagli interventi delle ascoltatrici e degli ascoltatori, e in particolare anche martedì prossimo e così nei successivi martedì daremo spazio alle voci di chi sta vivendo all'interno del mondo della scuola questa emergenza. E il numero di telefono non ve lo do perché non possiamo interagire in diretta, almeno soltanto per oggi, però vi chiedo sempre lo stesso sforzo di ogni settimana, cioè di sostenere ROR attraverso delle donazioni. Andate sul sito ondarossa.info, cliccate sul banner Sostieni Onda Rossa e fate il vostro abbonamento annuale, è necessario perché questa radio continui a trasmettere senza padrini e senza padroni. Uno stacco musicale e poi riprendiamo. Je me barre, de la liberté, un tas de contrôleurs à mes trousses portés par le vent. Allez dire aux uniformes sur les nerfs, ils ne m'attraperont même pas en rêve. La nuit dehors, réveillé par un frisson, un éveil, même quand je dors connecté à mon intuition, j'ai rien à craindre. Percé par le champ de la lune, la chance dans les mains libres, enfant de la rue. Loin du monde, des adultes illogiques et rigides, fugitifs de leur enclos, n'a qu'un flic et vigile. Fuck, c'est peut-être con, mais c'est ainsi. J'insiste, vos lois sont immorales, ma délinquance a des principes, alors laissez-moi en paix. Vous pouvez toujours attendre si vous voulez voir en paix. Plutôt une balle dans la tempe, enivrée. Où mon cœur me porte, je m'en irai. Moi, je suis faite pour vivre entre les mailles de vos filets. Je me barre, tcha tcha, le foyer, je me barre. Je m'en vais respirer au port. Je me barre, tcha tcha, le foyer, je me barre. Quand j'ai rien, car pour être libre, faut avoir rien à perdre. Ma liberté a rendu vers les hommes en bleu. Cage d'escalier comme l'eau, j'y change de maison quand je veux. Change de ville quand je veux. Élu sans domicile, je vagabonde les yeux ouverts. L'enfant des rues est en visite, me méfiant de l'adulte comme de la peste. Car l'adulte est une balance, un collabo ou un traître. Croisant mon expérience sous pression, car ma juge est en colère. Laissez-moi vivre, de toute façon, j'ai plus le droit d'aller au collège. Alors merde, aujourd'hui j'ai 14 piges. Je fume depuis un bout de temps. J'ai pris de la bouteille et j'ai besoin de personne. La vie m'éduque. La vadrouille m'ouvre l'esprit, les rencontres m'apprennent bien plus que leurs profs. Bref, c'est l'école de la vie, à l'air libre, là où le ciel est le toit, entre ciment et belle étoile. Riprendiamo l'ora di buco con le ultime informazioni sulla scuola, ovvero le scuole rimangono aperte. E come nelle ultime settimane, e però soltanto in caso di attività indifferibili. Questa è la dicitura che ci lascia un po' perplessi, perché evidentemente non si chiudono le scuole e si lascia ai dirigenti, alle dirigenti, la decisione di capire quando, come aprire, in che termini. Questo sta creando molto molto caos all'interno delle scuole, perché in alcune scuole, molte scuole è in regime ovviamente la situazione emergenziale, quindi il contingente minimo, il personale ATA deve rimanere al lavoro, deve aprire la scuola, anche se poi attività per il pubblico non c'è ed è ridotta in parte quella d'ufficio. Però anche i collaboratori scolastici devono comunque rimanere, mentre in altre scuole noi sappiamo che invece i dirigenti stanno resistendo a tenerla aperta, ovvero un contingente che non è assolutamente ridotto. Quindi questa decisione di ieri nel decreto cosiddetto Cura Italia in realtà lascia la situazione molto molto incerta. Non chiarisce. E l'altra informazione che è il caso di dare forse è questo 85 milioni che sono stati che è stato deliberato di destinare alle scuole per la didattica a distanza. Parleremo subito della didattica a distanza, anzi è il tema centrale di questa breve, ridotta e precaria trasmissione. Però 85 milioni, facciamo il conto del macellaio, non lo so, ovvero 8 milioni di studenti, 85 milioni di euro, forse anche lorde, saranno tipo 10 euro a studente, oppure se dividiamo 85 milioni per le 8.000 e passa a scuole, istituti, saranno quindi 10.000 euro per istituto, ma questi soldi non andranno nelle tasche degli studenti né del personale, o meglio andrà nelle tasche di alcuni, perché l'idea è quella di sovvenzionare, pagare, permettere alla scuola di aggiornarsi sulla didattica a distanza, e quindi i soldi spesi dalla scuola per ottemperare alla direttiva dell'attivazione della didattica a distanza andranno lì. Adesso vedremo chi è che gestisce la didattica a distanza. Forse qualcuno all'interno dello staff, della dirigenza, forse riuscirà a prendere parte di questa, di questi spiccioli, sostanzialmente, e una piccola parte andrà nel tentativo di fornire in comodato d'uso la strumentazione tecnologica, quindi ad esempio computer, agli studenti e alle studenti che non lo hanno, che ne fanno richiesta. I numeri sono molto molto bassi, così a prima vista. E queste sono le novità, però la situazione ormai, dopo diversi giorni dalla sospensione dell'attività didattica, sta assumendo un carattere piuttosto evidente. Ovvero che tutte le scuole, e all'interno delle scuole i docenti in particolare, si stanno buttando a capofitto su questa DAD, su questa didattica a distanza. La didattica a distanza è diventata un acronimo, DAD, D-A-D, e quindi già questo ci può far capire che tipo di attività, a che tipo di attività si sta riducendo. E probabilmente il corpo docente è impreparato a una didattica a distanza, ovvero non sappiamo neanche cosa voglia significare didattica a distanza, probabilmente mantenere contatti con gli studenti, questa è l'ultima versione. Però quello che noi sappiamo è che il Ministero dell'Istruzione sta consigliando alcuni siti, alcuni strumenti, alcune piattaforme che le scuole possono debbono adottare per ottemperare a questa direttiva. Ovviamente noi sappiamo che due dei maggiori aziende private che il MIUR consiglia sono Google e Microsoft. Google con questa G Suite, con questa, chiamiamola, piattaforma, e Microsoft con Office 365, credo, e quindi sostanzialmente, e anche altre ovviamente, però come avevamo già detto qualche settimana fa, questo e-learning pubblico viene demandato a dei giganti privati. E quindi probabilmente questi giganti privati stanno già sorridendo a questa situazione, perché si tratta appunto di affari sostanzialmente. E noi docenti ci siamo buttati dentro questa DAD con G Suite o Microsoft, e dentro ci stiamo mettendo non soltanto le nostre teste, le nostre anche capacità, ma anche stiamo forzatamente invitando, creando queste classrooms, queste classi virtuali, anche milioni di ragazzi e anche di bambine e di bambini, perché parliamo di tutti gli ordini di scuola e anche le famiglie di riflesso. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come- democracy. Yeah, I got more records than the KGB. So, no funny business. Are you already are. Dunque continuiamo a parlare di DAD, di AD, la didattica a distanza, che sembra essere la grande passione in questo contesto drammatico che stiamo vivendo, che si vive all'interno delle scuole, o meglio all'esterno delle scuole, negli nuovi ambienti di lavoro che non hanno confini, non hanno spazio, non hanno limite di spazio, limite di tempo, perché evidentemente l'informatica a questo può portare. E l'osservazione che stavamo facendo è proprio quella che, eccetto alcune eccezioni, infatti magari daremo spazio anche a queste eccezioni nelle nostre prossime trasmissioni, e dicevo, il corpo docente si sta buttando meravigliosamente dentro questo burrone. Allora, diversi problemi. Il primo problema è chi sono questi giganti privati, queste aziende che in maniera così generosa stanno mettendo gratuitamente il loro know-how al servizio della scuola italiana, e anche non soltanto italiana. E due, cosa significa effettivamente fare una lezione dentro questi ambienti. Allora, la prima parte, come dire, ci sono esperti anche in questa radio molto più in grado di spiegare per quali motivi dovremmo temere di buttarci dentro le mani di Google e Microsoft. Direi soltanto attenzione alla privacy, poi dopo alla gestione di tutto ciò che uno mette dentro questi ambienti. E soltanto per fare un esempio, le liberatorie che vanno firmate sia ai docenti, ai ragazzi e alle famiglie, per appunto permettere di essere spiati sostanzialmente e di diventare clienti di queste aziende, sono firmate a occhi chiusi sostanzialmente. Quindi sia gli adulti che i giovani non stanno facendo particolare attenzione a cosa significa e dare la liberatoria e accettare di diventare cliente di Google e Microsoft. L'altro aspetto è quello che preoccupa parimenti, ovvero credere che queste modalità rappresentino un'alternativa valida alla didattica che normalmente si fa a scuola. Allora, anche qui siamo caduti nella trappola. La prima trappola è quella di, sì, è vero, è molto, molto divertente creare delle classi virtuali, invitare gli studenti a partecipare, mettere l'orario, fare addirittura delle verifiche, oltre a non so, fare delle lezioni in questi ambienti smart. E pensare che così abbiamo risolto la questione del coronavirus e dell'interruzione della didattica. E l'altro aspetto è che chi non entra dentro questi ambienti, per molti motivi, sia perché è consapevole che è uno strumento altamente tossico, sia perché crede che questa non sia la didattica e è meglio non dare un surrogato e non illudere gli studenti e le famiglie che si stia facendo didattica, e beh, queste persone sono abbastanza isolate, sono quasi accerchiate, perché le disposizioni sono molto molto chiare. E ultima informazione è attivo un monitoraggio da parte del MIUR che tutte le scuole stanno trasmettendo ai docenti, alle docenti, per appunto vedere come sta andando a distanza di 10 giorni, anche meno, la didattica a distanza come sta andando, ovvero se tutti i dirigenti e le dirigenti si sono attivati per la DAD. E abbiamo visto che questo servirà a poi dirottare in che modo non lo sappiamo, questi 85 milioni che l'ultimo decreto ha stanziato per la scuola. Quindi il monitoraggio va fatto perché così possiamo sapere le scuole da premiare o da aiutare magari pensare questa la mancanza di strumenti e competenze. E l'altro aspetto anche abbastanza problematico che si sta acuendo in questa fase è appunto la gerarchizzazione del lavoro, ovvero sia che tu sia un prof o una prof contrastivo, cioè un dissidente, un riottoso, sia che invece tu ubbidisca in maniera piuttosto rapida o anzi anticipi quelli che saranno gli ordini e le disposizioni, gli inviti, chiamateli come volete, dei dirigenti e delle dirigenti, è chiaro che costruzione a piramide che ormai la scuola ha messo in campo all'interno del lavoro sta funzionando perfettamente. Dunque, questa situazione di emergenza drammatica che conosciamo sta tirando fuori il peggio anche da questo punto di vista. Negli ultimi anni si è creato questa catena di comando che va appunto dal vertice, dal dirigente e arriva alla fine al singolo docente, alla singola docente, e questa trasmissione di comando in questi giorni è pienamente al lavoro e dunque sotto la dirigente, il dirigente ci sta il vicepreside, la vicepreside, c'è lo staff, c'è adesso il team digitale che è il gruppo ristretto di docenti che, competenti o meno in informatica, fanno parte di questo gruppo che trasmette gli ordini di applicare la DAD, qualunque cosa sia e qualunque cosa faccia. E sotto questo ci sono poi i coordinatori e le coordinatrici di classe che devono monitorare, che devono controllare se tutti i docenti stanno ubbidendo, e alla fine arrivi tu che accetti recalcitrante o anche in modo entusiastico tutti questi ordini, tutte queste disposizioni. Questo è un problema molto molto serio che dovremmo affrontare, almeno affrontiamo in questo spazio, in questa trasmissione, in questa radio, perché a nostro avviso questo è uno degli aspetti che rimarranno. Potrà passare, non sappiamo quando, non sappiamo come, questa situazione, ma quello che rimarrà è certamente questo impianto. Questo impianto è stato costruito nel tempo, non nasce ieri ovviamente, e questa è una prova piuttosto consistente e sta funzionando. La situazione ci preoccupa molto e quindi, non lo so, vi invito a telefonare alla radio nei prossimi giorni, nelle prossime trasmissioni, per capire se questa preoccupazione che abbiamo noi qui in redazione la condividiate oppure se è un'impressione allarmistica. Work it, let me work it. I put my thing. call me over. Knock on the bed, lay me on your sofa. Call before you come, I need to shave my chocha. You do or you don't, or you will, I won't cha. Go downtown and eat it like a vulture. See my hips and my tips, so cha. See my ass and my lips, don't cha. Lost a few pounds in my whips, for ya. It's the kind of beat that go ba-ta-ta. Ba-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Sex me so good, I say blah, blah, blah. Work it, I need a glass of water. Boy, oh boy, it's good to know ya. Is it worth it? Let me work it. I put my thing down, flip it and reverse it. It's your primitive, it's wet and yet. It's your primitive, it's wet and yet. If you got a big, let me search it. To find out how hard I gotta work, yeah. It's your primitive, it's wet and yet. It's your primitive, it's wet and yet. If you a fly gal, get your nails done. Get a pedicure, get your hair did. Boy, lift it up, let's make a toaster. Let's get drunk, it's gonna bring us closer. Don't I look like a Halle Berry poster? See the Belvedere playing tricks on ya. Girlfriend wanna be like me, never. You won't find a bitch that's even better. I make it hot as Las Vegas weather. Listen up close while I take it backwards. Okay, begins to be listen to me with you. I'm not a prostitute, but I can give you what you want. I love your braids and your mouth full of phones. Love the way my ass go, boom, boom, boom, boom. Keep your eyes on my boom, boom. Boom, boom. You think you can handle this, ka-donk-a-donk-donk. Take my thong off and my ass go boom. Cut the lights on so you see what I can do. Is it worth it? Let me work it. I put my thing down, flip it and reverse it. It's your primitive, it's wet and yet. It's your primitive, it's wet and yet. If you got a big, let me search it. To find out how hard I gotta work, yeah. It's your primitive, it's wet and yet. It's your primitive, it's wet and yet. Boys, all type of boys. Black, white, Puerto Rican, Chinese boys. Wine, thang, thang, thang, thang, thang. Lump, thang, thang, thang, thang, thang. Girls, girls, get that cash. If it's 9 to 5, we're shaking your ass. Ain't no shame, ladies, do your thing. Just make sure you ahead of the game. Just cause I got a lot of fame, super. Prince couldn't get me, change my name, Papa. Hooter can't tell you, slave again, no sign. Picture Black saying, oh, yes, I'm a sign. Picture Lil' Kim dating a pastor. Minuteman, Big Red can outlast ya. Who is the best? I don't have to ask ya. When I come out, you won't even matter. Why you act dumb like, duh? Say you act dumb like, duh. As the drummer boy go brr up a pum pum. Give you some of this cinnamon. Riprendiamo l'ora di buco. Ci avviamo alla conclusione di questa versione ridotta e precaria della trasmissione, e finendo con una riflessione che dovrebbe aprire gli occhi a molti. E non tutti hanno le stesse possibilità di accesso a un PC, a un computer, non tutti hanno possibilità di accesso illimitato a una rete, a un collegamento che funzionino. E non tutti hanno possibilità in casa di liberamente, tranquillamente, serenamente mettersi davanti appunto a questo schermo, a questo computer, a questo tablet, a questo cellulare e seguire una lezione, effettuare una verifica, un compito. E dunque l'aspetto dell'equità dello strumento che stiamo utilizzando dovrebbe far capire che la strada probabilmente non è questa. Non abbiamo idee, ovviamente. Sappiamo che molti docenti stanno facendo molto. Il rischio è di diventare, no, in maniera, i sottoeroi di questa emergenza nazionale. Gli eroi li sappiamo chi sono i medici buttati in prima linea, i primi che si ammalano, quelli che muoiono, e i secondi sì sono i grandi eroi, i sottoeroi, quelli, i docenti che nella scuola stanno facendo tutto quello che devono fare. Questa distanza didattica, questa parola ancora non è stata utilizzata per appunto i docenti, ma la stessa ministra Azzolina, tramite ovviamente Facebook, ha comunicato che lei è molto orgogliosa dei suoi insegnanti, perché stanno dimostrando appunto di credere, applicare queste direttive. E dunque la retorica del buon insegnante, del buon maestro, della cara maestra, e anche questa è parte dell'informazione tossica che ci sta avvolgendo. In più è il caso anche di parlare della precarietà del lavoro di chi sta dentro le scuole. In questo momento i docenti a tempo indeterminato sono tutelati, e parzialmente anche il personale ATA a tempo indeterminato, ma il rischio dei precari è sempre molto molto alto, e gli assistenti specialistici anche rischiano di perdere parte del loro compensi in questa situazione. E dunque, come dire, il pensiero deve andare anche a tutte le persone che ruotano intorno alla scuola e che anche lì stanno perdendo la loro possibilità di mantenere un livello dignitoso di esistenza. Detto questo, è soltanto l'inizio di un percorso che nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, la radio Onda Rossa farà. E nel mondo della scuola noi vi invitiamo contattare la radio in tutti i modi, attraverso il numero telefonico, attraverso la mail, perché ci interessa avere la situazione, le diverse situazioni che si stanno verificando, che le scuole stanno vivendo, e non soltanto qui a Roma ma in tutta Italia, nelle scuole di tutti gli ordini, perché ovviamente il discorso è molto diverso se stiamo parlando di ragazze e ragazzi, di bambine e di bambini, o di ragazzi che faranno chissà forse la maturità. È diversa la situazione delle grandi città rispetto a posti isolati in campagna, e dunque il canale rimarrà sempre aperto su Radio Onda Rossa per continuare a parlare di scuola ai tempi del coronavirus. È con questo che chiudiamo, vi ringraziamo per averci ascoltato in maniera così straziante, e però vi diamo appuntamento a martedì prossimo con l'ora di buco. Lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola. Per tre marciate tutti con me, ricordatevi i libri di storia, noi siamo i buoni, perciò abbiamo sempre ragione, andiamo dritti verso la gloria. Avanti, in fila per tre, avanti, avanti, in fila per tre, ehi!